ma adesso, come vi avevamo promesso e preannunciato, abbiamo il nostro appuntamento con la nostra redazione di Londra. E allora, Waiting for Sanremo, linea Fergal Kavanagh. Waiting for Sanremo. Hi Fergal. Hello Fabio, how are you? I'm fine, thanks. Questa è una inaugurazione, no, con la nostra redazione londinese. Sì, infatti è la prima volta che facciamo il Tam Tam, un sorta di Tam Tam Europe, però è vero, qua siamo a Sanremo. Anche se Tam Tam Europe nei prossimi giorni, da lunedì, a partire da lunedì, si occuperà di rock e non solo, no? Tu nel promo dici Daily Dose, la dose quotidiana di rock, e non solamente quello. Ma parliamo di Sanremo. Come hai visto Sanremo all'estero, Fergal? Allora, Sanremo proprio è una storia proprio grande nel mondo dell'estero, perché noi abbiamo una cosa che si chiama l'Eurovision, che sarebbe un contesto dove ci sono tutti quanti i paesi dell'Europa che fanno un canzone la testa, e poi c'è un vincitore che dura una sera. E questo proprio è nato da Sanremo negli anni 50, è nato negli anni 56, mentre Sanremo credo è dal 50. E l'Italia pure ha vinto questo contesto nel 90, però da allora credo che l'hanno lasciato, perché Sanremo già li costava assai. E poi Sanremo è anche visto, c'è molto credibility, cioè la gente ci credono in Sanremo, mentre gli Eurovision già le credono che sia un scherzo, tipo Celine Dion, che è bravissima, però ha vinto per la Svezia, e lei è canadese, come sappiamo. Per cui scusami Fergal, il pubblico inglese, il pubblico che segue Eurovision, non la prende seriamente come gli italiani prendono Sanremo. Per carità, no, infatti. Cioè, se pensiamo all'Eurovision, l'unica cosa buona che è uscita dall'Eurovision sarebbe Modugno, che ha fatto Nel blu dipinto del blu nel 58. Quello è diventato una cosa internazionale alla grande. Poi gli ABBA, e a parte quello, niente. Mentre a Sanremo, come sappiamo, vengono tutti quanti da tutte le parti del mondo, perché sanno che c'è un pubblico garantito, che vedono qualcosa che dura 5 giorni, che può darsi, come ha detto ieri Alessio Bonomo, roba da spaccargli un palo in mezzo agli occhi, però 5 notti, perché? Di telenovela con la bella spagnola, come si chiama la spagnola? Ines Astra si chiama. Ines Astra, sì, cioè ero così impegnato a guardarla che ho scordato il nome. E Fabio Fazio, che è bravissimo quanto a te, Fabio. E Pavarotti il maestro, quindi è proprio un telenovela che dura alla grande, ci piace tanto. Però, insomma, è comunque una roba che dura moltissimo. Invece gli Eurovision quanto durano? Ah, quello è solo una notte. Poi tipo un mese prima c'è anche la selezione in ogni paese. Quindi una notte è tutto finito. E poi, okay, cioè, è una cosa di fuga. È finito prima che inizia. Ok Fergal, commenti particolari sulla Festival di Sanremo, sulle canzoni? Hai citato Alessio Bonomo, che è un giovane addirittura. Ci sono commenti particolari all'estero su quelle che sono le canzoni, sulla musicalità di questo 50° Festival della Canzone Italiana? Allora, al mondo, alla stampa, diciamo, è piaciuto chiaramente tutti gli ospiti che ci vanno a suonare. E cioè poi, quelli stranieri praticamente, non quelli italiani alla fine. Quelli italiani, c'era un po' di commenti del fatto che Venditti ha suonato per la prima volta a Sanremo ieri, però purtroppo Venditti non è molto conosciuto all'estero, però non è stato dubbi. Noto che come un grande italiano è stato per la prima volta messo in onda su Sanremo. Okay. E quindi sì, un po' di notice, cioè sì, le vedono un po'. Piace molto. Va bene, grazie Fergal, ti ringrazio moltissimo, ti do appuntamento a lunedì quando comincerai con Tam Tam Europe, Daily Dose di Rock e anche altro e notizie dalla nostra redazione di Londra. Grazie tantissime. Thank you Fabio e salute me Bonovox stasera. Ok, bye bye. Talk to you soon. SPOT. Spot.